Europa 24. Il tema dei migranti è stato al centro del dibattito stamattina alla plenaria del Parlamento europeo. Il presidente della Commissione Juncker apre alla flessibilità sui costi per i profughi, per l'Italia a margine di 3,3 miliardi di euro. No registration, no rights. Niente registrazione, niente diritti. Così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha sottolineato la necessità di controllo per fronteggiare la crisi dei migranti alla plenaria del Parlamento di Strasburgo. No alle scelte unilaterali, dice Juncker, ma sì al rafforzamento dei controlli di frontiera fra Grecia, Macedonia e Serbia, ossia sui paesi della rotta balcanica delle migrazioni. E sullo scorporo dei costi per l'accoglienza dal patto di stabilità, l'apertura sarà concessa ai paesi che potranno dimostrare spese straordinarie, anche se, sottolinea, molti grandi paesi non stanno facendo abbastanza. The immediate imperative is to provide shelter. Juncker ribadisce poi l'impegno alla solidarietà per un'Europa che nel 2015 non può tollerare di vedere la gente dormire in mezzo ai campi, con il freddo che aumenta. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, invece, sottolinea la centralità degli accordi con la Turchia per la protezione delle frontiere, anche se l'intesa, afferma, non sarà né facile né sufficiente a normalizzare la situazione. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha ricevuto a Bruxelles il presidente palestinese Abu Mazen per cercare di individuare misure concrete che possano riportare la calma in Israele nei territori palestinesi. Cercheremo di identificare un processo politico comune che conduca a delle certezze, ha detto la Mogherini. Sappiamo che l'orizzonte politico è quello di una soluzione a due stati, ma questo non è un orizzonte politico sufficiente perché dobbiamo garantire la sicurezza sul terreno e intraprendere passi concreti per migliorare la situazione quotidiana della popolazione. La Commissione europea è intervenuta sul dibattito in Gran Bretagna per azzerare l'IVA sugli assorbenti femminili, una campagna che spesso lamenta come su altri prodotti o servizi di dubbia utilità, dalla carne di coccodrillo, di canguro e struzzo al bingo, sia invece prevista l'esenzione. Le regole europee sull'IVA non sono imposte dalla Commissione ma concordate fra i vari Stati membri, ha ricordato la portavoce per le questioni fiscali Vanessa Mock. Ed ora parliamo di costi delle telefonate roaming. Chiamate, messaggi e internet all'estero non avranno più un sovrapprezzo. Dal 15 giugno 2017 verrà abolito il roaming. Oggi la votazione finale del Parlamento europeo arriva dopo anni di negoziati per ridurre le tariffe aggiuntive e per regolare il traffico internet secondo la net neutrality, il fatto cioè che la rete non sia soggetta a restrizioni arbitrarie. I consumatori devono poter accedere ad internet liberamente e le imprese non dovranno bloccare o rallentare l'utilizzo di una qualsiasi applicazione. A partire dal 30 aprile 2016 le maggiorazioni del roaming non dovranno superare i 5 centesimi al minuto per le chiamate, i 5 centesimi per ogni megabyte di dati utilizzati e i 2 centesimi per gli sms. L'abolizione totale delle tariffe aggiuntive interesserà però solo le persone che andranno all'estero per brevi periodi. L'Unione Europea vuole infatti evitare la concorrenza fra le compagnie telefoniche nei 28 Stati membri. Per esempio, se si possiede una scheda italiana e si vive regolarmente in Francia, il sovrapprezzo potrà essere aggiunto nuovamente. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.